Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate lì intorno che è svanita in un giorno e sembrava durasse in eterno, quando han preso la scala per salire al successo ed invece sono scesi all'inferno. And the show must go, the show must go, and the show must go, the show must go. Gli artisti falliti hanno un sogno proibito, un teatro con fuori scritto tutto esaurito e una nota sospesa con un'intonazione che si alzi la sala e che esploda il loggione o quant'altro ci sia per andarsene via con tre o quattro persone di scorta fra due ali di gente, se non proprio per sempre, però almeno provarlo una volta. And the show must go, the show must go, and the show must go, the show must go, and the show must go. Calcolatrice. And the show must go, the show must go, and the show must go, the show must go, and the show must go. Gli artisti falliti hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero sia mai stata lavata ed un'alba slavata da mandare a fanculo perché c'è un nuovo giorno nel pugno e una birra ghiacciata da gelarci l'inferno perché loro siamo tutti o nessuno. And the show must go, the show must go.